Pronto? Professore, sono Cruciani, volevo chiarire che è successo. Guarda, no, se ti incontro, guarda, ricordo, mi porti in processo, ma guarda, ti faccio vedere, sei un mascal, non ti sei lontano perché tu sei un delinquente. Arrivederci. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Sono in visita al Louvre, mi hanno proposto di comprare la loro audioguida per circa 10 euro, gli ho risposto in italiano, no grazie, ho già il podcast della zanzara, siamo al top. Luciani, che soddisfazione tornare al paese, andare a dormire dai miei e beccare mio padre che si ascolta all'1:30 la replica della zanzara. Grande! Allora, caro David, nella giornata del 25 aprile, nella giornata dello scudetto della Juventus, della Juventus, è più importante lo scudetto della non Juventus, credo proprio, il quinto scudetto consecutivo della Juventus del 25 aprile. Io sinceramente devo dirti la verità. Te la posso dire con il cuore. A me del 25 aprile non è mai fregata una mazza. E te ne dovrebbe fregare invece. Nulla. Perché non potresti fare questa trasmissione se avessero vinto gli altri. No, gli altri che c'entra. Se avessero vinto quella gentaglia della Repubblica Sociale Italiana, mica volevo che vincessero quegli altri. Assolutamente va ricordato no. anche solo no, per quello. Va ricordata. Questa trasmissione c'è e poi ha questo grado di libertà perché qualcuno ha gli liberato questo paese. Gli americani. Sì, al. Ma tu sai dove? Al nord la resistenza America, ha liberato l'Italia. Comunque il 25 aprile. Gli americani non sono sbarcati in Liguria. A me non è mai fregato nulla. In Lombardia gli americani non sono sbarcati. Non facciamo una trasmissione sono di storia. Al sud non facciamo una trasmissione però. Di storia. Sono sbarcati in Sicilia gli americani. Non facciamo una trasmissione di storia. No, io dico semplicemente che a me del 25 aprile non me ne è mai fregato fai nulla. Male, fai ma io molto te lo dico male. Con sincerità. Sì, ma fai male. Ma non me ne è mai fregato niente. Oggi, per esempio, 25 aprile 2016 è molto più importante il quinto scudetto consecutivo della Juventus. A chi se ne frega? E vorrei sentire Auriemma. E vorrei sentire Auriemma. Piuttosto che la festa della, l'ennesima festa della liberazione. Beh, l'ennesima. Sì, l'ennesima. In Francia festa. Il 14 luglio lo frequento. La si cancelli, guarda, la si cancelli. Io però vorrei iniziare con una cosa. Perché adesso mi sono veramente scocciato. Mi hanno veramente rotto i coglioni. Sto parlando di due signori contro cui non ho mai avuto nulla. Abbiamo fatto ogni tanto qualche ironia qua a Parenzo, qui alla Zanzara, no? L'abbiamo preso in giro e anzi non abbiamo so fatto chi. Grande pubblicità alla loro trasmissione qui sui cani, sui gatti, sugli animali, eccetera, eccetera. Trattasi della signora Celentano del signor Baira, coppia, forse prossimi sposi o no, non me ne fotte nulla, i quali però hanno un difetto. Ognuno è libero di dire quello che vuole, ovviamente, no? Cioè, che è quello di considerare tutti quelli che non la pensano come loro, che sono, secondo me, nel pieno del nazi-veganesimo, degli stronzi, degli ignoranti. Tu senti che cosa hanno detto, me l'hanno segnalato più persone, dunque lo ripropongo qui volentieri all'inizio di questa trasmissione di oggi, del 25 aprile, perché mi hanno veramente rotto il cazzo, devo dirti la verità, io non me la prendo mai per niente, però hanno proprio, sono di un'ipocrisia, cioè sono di un'ipocrisia perché davanti quando ti incontro non te lo dicono, capito? Non è che ti dicono quello che pensano, fanno tutti gentili, tutti carini, tutti precisi, eccetera. Poi però parlano di ignoranza, diversamente intelligenti, dopo aver fatto una gaffa sull'handicap una volta, tra l'altro. Sentiamo. c'è chi sostiene che siano gli animalisti quelli violenti, e invece io vedo sempre più che invece la violenza è molto più facile averla da chi odia gli animali. Ci sono i nazi ignoranti, no, che fanno sta roba qua, cioè che ti prendono, diversamente intelligenti. Sono diversamente intelligenti, hanno anche delle trasmissioni in radio di diversamente intelligenti, e quindi voglio dire, sai. Allora, mi hanno veramente rotto i coglioni, perché sono due... Fallo battaglia, in questo dai. Caso, no, per carità, sì, ho capito, ma non è che diversamente intelligenti, nazi ignoranti, battaglia. Ma si possono fare quello che vogliono. Io, da un punto di vista, come dire, dialettico, da un punto di vista anche mentale, di apertura mentale, li mangio in testa tutti e due. Cioè, deve essere chiaro, li mangio in testa, chiaro? Cioè, e dal punto di vista radiofonico mi devono pulire, lucidare le scarpe, lucidare, e devono ringraziare che noi li citiamo e facciamo pubblicità al loro programma, chiaro? Per cui diversamente intelligente lo dite a vostra sorella, diversamente intelligente. Mi hanno scassato la minchia, diversamente intelligente. Io penso che loro siano delle persone che io contrasto per quello che dicono, non è che penso che sono diversamente intelligenti. Detto tra l'altro da una che dice di per mettersi a livello degli animali, per capire gli animali, striscia per terra e fa lo stesso percorso che fanno gli animali strisciando per terra. Cioè, vorrei dire questo, no, vorrei dire questo. Una volta ha detto nel suo programma che striscia per terra per mettersi a livello degli animali, per capire come vivono gli animali. Beh, è stata non so quanto tempo per terra insieme agli animali. Questo ognuno ragazzi, fa quel che vuole. Non mi fate impazzire su questa roba. Allora, Brunetta, ospite da Parenzo ieri sera, sulla questione della Pascale. Ora, a voi sembra normale che la moglie, anzi la fidanzata dell'ex presidente del Consiglio, nonché presunto capo del centrodestra, di un presunto centrodestra anch'esso, dia del troglodita a un leader politico? A me non me ne fotte nulla di Salvini, eccetera, eccetera, non sono certamente il suo portavoce. Ma che titolo ha? Adesso, oggettivamente, Parenzo. Beh, se viene intervistata, però, scusami. No, ma mica contesto l'intervista. Ho detto titolo ha? Che beh, titolo è una ha? Cittadina, come tanti altri, però è più, sì, autore, ma... è più, come dire, fa più notizia perché è la compagna del leader del Forza Italia. Ma che titolo ha politico per dire a Salvini che è un troglodita? Cioè e perché non potrebbe dire? Non ho capito. Chi ha detto che non lo può dire? A titolo politico, mica è candidato da qualche parte. Ho capito, ma allora non vedo la polemica. Pensa che è un troglodita. Non c'è polemica. Secondo me lo pensa anche Berlusconi, ma non lo può dire. Lo dice lei e fa benissimo, trova il mio consenso assoluto. La compagna Pascale. Perché tu la condividi? Compagna Pascale. Perché tu condividi? Tu pensi che è una cosa banale? Ma come la polemica su Davigo, che ha detto delle cose talmente normali ed evidenti e vere che destano scandalo. Tu pensi che Salvini sia un troglodita? Non solo lui, anche i suoi elettori. No, ma tu lo pensi o no? Ah, tu non solo lui, anche i suoi elettori. No, questo allora, lo dico troglodita con significa uomo delle caverne che abita e ha il suo riparo abituale in caverne, soprattutto con riferimento a epoche preistoriche. Sì, certo. In particolare si designarono con questo nome, eccetera, eccetera. In similitudine o in usi figurati, persona che abita o vive in locali e ambienti sotterranei o interrati o comunque privi di luce, eccetera. Eccetera. Sì, cioè persone che non hanno avuto un'evoluzione. Aspetta, più spesso politica, persona primitiva, rozza o molto arretrata sul piano culturale e scientifico. Ecco, forse più questo. Ma non nel senso che non hanno cultura lui o persona o i suoi. Primitiva, rozza o molto arretrata. Che propone una politica primitiva. No, non persona ma non primitiva. Ma una persona, è un modo di dire. Cioè quando la Pascale dice troglodita, non è che guarda il dizionario, intende che politicamente ha una visione Brunetta, del mondo che è da caverna. Per me è una follia che la compagna ma della, questo di Berlusconi. Dice, non è che è troglodita che è da scimmia. Ha detto troglodita inginocchiati davanti al meridione, non è ma che no, ha detto è culturalmente un troglodita. Ma no, adesso... ma il senso, come tu sai, il valore sei estensivo che fai, della testa della Pascale, non ho capito. Ma no, ma è evidente che non è che pensi sono delle caverne. Sì. Brunetta l'abbate, da un punto di vista politico. Ma non è quello, dai. Eh no, che di senso lo diceva? Troglodita, lui pensa che lui sia veramente un troglodita, personalmente un troglodita. Da un punto di vista politico sicuramente ha un modello da caverne di parlare alla pancia della gente, di quello sicuramente. Francesca Pascale, fidanzata di Berlusconi, oggi a Repubblica ha detto che Salvini è un troglodita. Lei è d'accordo o non ma è d'accordo? Ma lei legge queste cose? Lo legge, sì, certo, tutti noi leggiamo. Perché queste... perché no? Ma io leggo le cose della politica. Beh, Pascale è la fidanzata di Berlusconi, comunque, insomma, capisco. Perché, scusi, se intervistano la sua fidanzata è giornalismo? Mi scusi, se intervistano la sua fidanzata, se intervistano tua moglie è giornalismo? Beh, è inutile, effettivamente. Però è una posizione politica. Poteva rifiutarsi di rispondere, invece ha rilasciato questa intervista. Ma è una persona libera, intelligente. Allora, ma le facciamo la domanda a Bruno. adesso contestare il fatto che l'opinione della Pascale su Salvini abbia un peso è ridicolo, caro Brunetta. Di che stiamo a parlare? È chiaro che ci si interroga su quanto peso abbia la Pascale nelle decisioni di Berlusconi, in quello che pensa Berlusconi. È per questo che la intervistano. Non è che la intervistano in quanto fidanzata, no. Cioè, se intervistano la mia fidanzata, che non ho, o la fidanzata di Parenzo, o la fidanzata di Labate, è evidente che non c'entra un cazzo, no. Cioè, sono due cose diverse. Ma come si fa a uscire così, Brunetta? Non capisco io. Cioè, manco gli avete detto niente. Scusi, che differenza? C'è una differenza tra la fidanzata di Parenzo, la fidanzata di Labate e la fidanzata di Berlusconi, no? Cioè, o no? Beh, sì. E allora. Crozza che fa un Berlusconi rincoglionito. Di lucido, a parte la spilla, in quell'uomo non c'è rimasto più niente. E lui dovrebbe trovare una soluzione per Roma. Scusate la domanda, ma esattamente tra tutti i nostri candidati, Bertolaso qual è? È quella incinta o quell'altro che sembra Rigi? Ma va, quindi Rigi è incinta di Bertolaso, che figata! Allora, io voglio farvi risentire oggi alcune parole dette dal signor Bifolco, che è il padre di quel ragazzo ucciso dal carabiniere perché pare che non si è fermato a un posto di blocco, carabiniere condannato a 4 anni e rotti, il signor Gianni Bifolco, il quale ha detto qui alla Zanzara la settimana scorsa che lui ruba per scelta e poi che ruba perché lo Stato non gli dà il lavoro. Questa secondo me è una fotografia perfetta di quello che accade in certe parti del meridione. Lei ha dei precedenti? Io ce l'ho i precedenti, per furti. Per furti? Piccoli furti. No, è per carità, io ma è giusto per sapere. Ma per scelta faccio i furti. In che senso per scelta? Per scelta, perché lo Stato, io non sono un io sono una vittima di uno Stato malato. Cioè perché non dai lavoro? No, ho capito, però. Non mi dà possibilità di lavoro, perché per 53 anni non mi hanno mai cacato, hai capito? Ma tu dove vivi? A Milano? A Milano, sì. E vieni a Napoli. E vabbè, ho capito, ma che vuol dire? Perché... Hai capito? È una lotta per la sopravvivenza. Ho capito, ma no, se uno deve ragionare, non c'ho il posto di lavoro, vado a rubare, è finita. Vabbè. È finita, e lo so, ma perché lo Stato non si muove a dare il lavoro? Ma che no, non è lo Stato che deve dare il lavoro, basta con questa storia. E chi lo deve dare, scusa? Ve lo dovete procurare da soli. Però, il lavoro. Scusi, se lei dice che... Procuriamo da solo, perché tu non te lo sei procurato da solo. Ecco, e no, chi mi ha dato la mano qualcuno? E come hai fatto, scusa? Ma come sono fatto un culo così, ho studiato, ho fatto... Hai studiato, hai avuto la possibilità di andare a studiare, ho capito, ma qui non c'è piatta a tavola fai... per mangiare. Se ti dico che non c'è lavoro, dammi il lavoro e io non vado a rubare. Traffio una... La Zanzara. Dammi il lavoro. Allucinante. E io sono di Napoli, sono di Napoli e mi vergogno quando sento queste cose per radio. Andate a fanculo, chi ha voglia di lavorare va a lavorare dappertutto, no vado a rubare perché lo Stato non mi dà il lavoro. Ma finiamolo di dire le stronzate, su. Che dici Parenzo? Iniziamo? Iniziamo avanti, qui, avanti tutta. Napoli, Antonio, dimmi. Salve. Vai, dimmi, mi dimmi. Sentite? Sì, vai, vai. Allora, posso iniziare con una frase di Papa Francesco? No, Marco. Papa Francesco, amico mio. Posso? Ci vuoi ammazzare tutto qua. Cortesia, per favore. Dai, dimmi. Mm. Allora, cari napoletani, non lasciatevi rubare la speranza, non cedete alle lusinghe di facili guadagni e redditi disonesti. Questo è pane per oggi e fame per domani. Reagite con fermezza alle organizzazioni che bruttano e corrompono i poveri e i deboli, con il cinico guadagno della droga. Poi? Finire, per favore. E altri crimini. Non lasciatevi rubare la speranza. Poi? Non lasciate che la nostra gioventù sia sfruttata da questa gente. Poi? Non sfigurino la gioia del vostro cuore napoletano. Ai criminali... Antonio, ti sto per lasciare, dimmi. Oggi, umilmente, come fratello, ripeto, convertitevi all'amore... Vabbè, ma che vuoi? Che vuoi? Non ho capito. Voglio dire che ci sono napoletani onesti. Ma chi dice il contrario? Dai, su, forza, vai avanti, invece di dire banalità. Ma avanti ti dico solo una cosa. Chi vuole lavorare, non c'è bisogno nemmeno che se ne vada da Napoli, resta là con umiltà e si accontenta anche del poco. Bravo, giusto. E non solo questo, si vede anche qualcosa di sbagliato, pur se tu tre ragazzi si vede sul motorino, o li ferma personalmente oppure gli manda. Vabbè, sento poco, grazie Antonio. Franco da Reggio Emilia, vai, forza. Pronto? Ecco, finalmente una telefonata pulita che si sente bene. Franco, vai. Volevo dire a Parenzo che non ha capito niente del fascismo della Seconda Guerra Mondiale. Sì. Perché? Che ha fatto? Che ha detto? Perché? Ecco, professore. Perché sostanzialmente Mussolini è entrato in guerra nella Seconda Guerra Mondiale per far perdere i tedeschi. Ma non me ne frega niente di discutere di storia con lei. Ma non c'è nessuna storia da fare oggi, c'è solo da ricordare che questo è un paese libero, grazie ai partigiani. Ma non c'è neanche da discutere, ci sarebbe. Vabbè, Franco, allora, ancora il coglione, il ma non coglione, ho capito che cosa vuoi dire. Neofascistello, Franco, che ricorda, ma che noia. Che voglio dire che Mussolini ha creato le condizioni per far entrare in guerra gli USA, gli americani. Chi se ne frega, ma che vuol dire? Mi fai parlare o no? Io argomento. Ma no, ma vada, hai storia a dire stupidaggini simili. Ma non c'è da argomentare niente! Oggi è il 25 aprile, la festa lui della liberazione. Fine, chiuso, arrivederci. Ha creato un effetto domino. Sì, l'effetto domino. Franco, non ho capito se sei ancora fascista oppure no. Cioè, fascista. Sì, certo che sono. Cioè, sei nostalgico. No, non dai, fermatelo, fascista. Via, portatelo via. Non sono fascista, no. Sono mussoliniano. Sei mussoliniano. Vatti a far ricoverare, amico mio. Mi sembra che sia chiaro che ti devi andare a fare ricoverare. Roberto da Milano, vai, Roberto. Basta dire le cose semplicemente. Vedi, sei mussoliniano, vatti a fare ricoverare. Non c'è altro rimedio, dai. Roberto da Milano, vai. Sì, pronto, buonasera. Dimmi, Roberto, dimmi. Allora, premetto che sono assolutamente d'accordo con Cruciani sul fatto che non me ne frega una bella pippa di nulla del 25 aprile. Ma anche a me, ma io a me non me ne frega niente, ma non è che sono mussoliniano per questo. No, cioè, appunto, nemmeno io, ma non me ne frega nulla. Sarebbe anche l'ora di smetterli di festeggiare la vittoria. Ma ognuno festeggia quello che vuole, dato. La vittoria è una guerra persa. Cioè, una guerra persa, che vuol dire? Vabbè, no, è un po' complicato il discorso. Dai, Roberto, dimmi, no, dai. Sì, va bene. Oggi il 25 aprile è la festa della Repubblica Serenissima di San Marco. Quindi, va bene. Ecco, la Repubblica di San Marco, sì. Gli spritz. Secondo discorso, gli spritz vanno consumati mangiando qualcosa nelle persone che non reggono l'alcol, perché altrimenti poi... Per quanto riguarda la Pascale, sì. Tutto lo show del pensiero della Pascale... A me non è che interessi molto il pensiero della Pascale, mi fa specie che la stampa si occupi del pensiero della Pascale. Scusate, però è abbastanza curioso. Ancora. Siccome si capisce si sa che... Curioso. Aspetta un attimo. Siccome si capisce e si sa che Berlusconi è influenzato anche da quello che dice la Pascale, non è che interpellano... È il tuo danno fondamentale. Quello è un altro discorso. Quello è un altro discorso. Allora, è normale che chi fa questo mestiere, l'abbiamo fatto anche noi nel passato, cerchi di intervistare la Pascale perché magari la Pascale dice qualcosa che noi... Che Berlusconi pensa, mi sembra una cosa abbastanza normale, non capisco, lo stupore. Allora, la prossima intervista facciamola a Dudu, che magari si esprime molto meglio. Se Dudu, se Dudu potesse parlare, cose più intelligenti. No, quello non lo so, però, immagino. Sicuramente uno che ha visto delle cose. Dunque, se Dudu potesse parlare, potrebbe essere anche una buona intervista. Quella comunque, a Dudu, ma non capisco Pascale, qual è il problema. La Pascale, la Pascale, la tabellina del 2 non la sa fare. Quindi, fagli un'intervista. Ma che ne sa lei? No, lo so, facciamo una scommessa. Fatemi fare la tabellina. Ma lei che due. Ne sa? La vince quadrato di due, non lo so. Ma facciamo una scommessa. Dai, come rischia tutto che adesso va di moda. Vabbè. Ti saluto, Cruciani. Ciao, Marco Ascoli, vai. Sì, buonasera Cruciani, buonasera Parenzo. Dimmi, sarò breve. Basta, viva sto il buonasera. 25 aprile, dal mio punto di vista. Sì. Credo che signor Cruciani o dottor Cruciani sì. Voglia in qualche modo alimentare una baruffa tra gli spettatori. Sono più... Ma scusa, d'accordo, ma io no. Con Parenzo, come spesso accade, perché Parenzo mi sembra più lineare e più equilibrato in questi giudizi. Lineare, equilibrato, ma che c'entra? Io ho detto, oggi mi interessa di più lo scudetto della Juventus piuttosto che il 25 aprile. Ho detto, del 25 aprile non mi è mai fregato una mazza. Posso dire quello che penso? Posso dire come sono fatto? Oppure mi devo nascondere e devo dire il 25 aprile? Del 25 aprile, a me personalmente ragione. Non mi è mai fregato un cazzo. Poi dopodiché capisco il valore, le cose. Perché vivi in un paese libero, ma già. No, ma per altri motivi, ma non me ne frega niente, capito, di dire però delle bugie. E oggi, per esempio, è più importante per molte persone, immagino, lo scudetto la Juventus piuttosto che il 25 aprile, che viene interpretato ormai come un giorno di festa, punto e basta. Juventini gli interesserà sicuramente di più. Ma però no, ma mi piacerebbe pensare che il dottor Parenzo riesce a valorizzare il 25 aprile per anche un significato che può essere importante per i figli, i nipoti, certo, i nipoti. Ma che è? Ma Rai Storia? Ma che trasmissione è? Certo. Importante per i figli, i nipoti? Ma che cazzo ce ne frega a noi di queste robe qui? Sicuramente a qualcuno non gli interesserà. E vabbè, a lei interessa, a me non interessa. Cioè, non mi interessa. Ma infatti. Non mi interessa, è importante. Allora, il bello che dice Parenzo è questo qui, consentitemi, è che se la trasmissione, che è identificata come libertà, bravo, fa esatto, della libertà la possibilità di parlare, bravo, liberamente, ecco l'attualità del 25 aprile, bravo. Sì, ma è più complesso di una data, è più complesso di una data, dai. Ragazzi, devo chiudere, fermo lì. Cruciani e Parenzo, siete solo due minchioni, questa è la verità di oggi, ciao. Donne, è arrivato Melog del tardo mattino. Melog accomoda pregiudizi, pensieri scontati e luoghi comuni. Abbiamo tutti i pezzi di ricambio per sguardi non convenzionali. Se il vostro cervello fa fumo, noi lo ripariamo. Affiliamo senso critico, fratelli coltelli, parenti serpenti, opinioni saccenti. Insomma, ascoltate il Melog di mezzogiorno. A metà giornata si rivolta alla frittata. Gianluca Nicoletti vi aspetta con Melog da lunedì a venerdì dalle 12 alle 13 su Radio 24. La Zanzara. La libertà di stampa in Italia al 77° posto, ma la Zanzara è al primo posto. Viva la Zanzara! Cruciani, mi hai traviato. È da giovedì che non mi lavo e sto benissimo. Ciao Cruciani, un appello disperato dalle piattaforme, però una volta cagaci, cazzo, rispondici. È arrivato uno nuovo, uno che non si lava mai, più o meno come te, credo. Questo si lava due volte in 15 giorni, o bidet proprio non ne vuole sapere, si lava il giorno prima di scendere a terra, se no la moglie lo caccia. Tu che sei esperto, dici come dobbiamo fare, dacci un consiglio, dici il nome di uno spray da mettergli addosso, se no qua ci buttiamo a mare o noi o buttiamo a mare lui. Aspetto una risposta, almeno questa volta, Ciao! Amici miei sulle piattaforme, vi abbraccio, ma non posso darvi un consiglio, che cosa vuoi che faccia? Dite voi qualcosa, io non sono a quei livelli, ho già spiegato più volte, non voglio tornarci sopra. Adesso, se uno vive nelle piattaforme in mezzo a delle persone, farebbe bene a lavarsi, Meno male. Allora, Parenzo, tu sai da dove è nato praticamente lo spunto per quel film straordinario che è Perfetti Sconosciuti, quello dei telefonini, no? Cioè quello di mettere insieme... L'ho visto, bellissimo, di mettere esatto, insieme... Molto bello quel film, mettere insieme le persone a una tavola e scambiarsi il telefonino e vedere quello che succede. Allora, dice il regista, che si chiama Genovesi, sì, la storia che mi ha fatto scattare il click è stata quella di un mio amico avvocato che ha avuto un incidente col motorino. Sì. La moglie ha raccolto il cellulare per terra e mentre andavano in ospedale si sono lasciati. Cioè tu pensa la moglie, no? La moglie raccoglie il telefonino per terra del marito che ha fatto l'incidente. Pazzesco. Quello va all'ospedale, la moglie gli guarda tutti i messaggi sul cellulare, gli WhatsApp. Testa, dice, ancora dico, vivo, perché sei? Bisogna leggere i messaggi degli altri? Tu sei malato di mente da questo punto di vista. Perché bisogna leggere i messaggi dai cellulari dei compagni, degli amanti, dei presunti fidanzati, dei fidanzati? Per quale motivo? Perché il tuo compagno / compagna che sta con te deve sapere che ha il fiato sul collo. Cioè deve sapere che se fa delle porcherie verrà comunque scoperto. Cioè, che tipo Orwell, no? Il grande fratello, dai, devi sapere che sei sotto strettissimo controllo, sempre. Mia, ma una roba, solo se c'è il controllo. Ma è una roba da Teheran. No, sto scherzando. Ma sì, ma tu controlli. Però, tu controlli. No, no, io non controllo niente. Come no, ovviamente controlli. Non controllo niente perché ho rispetto di tutto e di tutti. Quindi, e lascio anche il mio cellulare sempre aperto, senza nessun codice. E no, tutti mettere sanno sempre mio, i codici. La mia compagna sa il codice e può ovviamente guardare il telefono. Mettere in ogni sempre momento i codici, anzi doppio codice. No, no, io non ho nessun doppio segreto. Passaggio. Quindi. Auriemma all'inizio del campionato, quando la Juve perdeva le partite, signor Auriemma. Auriemma, dunque. Auriemma è telecronista Mediaset, nonché grande speaker napoletano, eccetera, eccetera. Non cominciare a denigrarlo. Ah, l'ultras del Napoli. Ma non è l'ultras, è un giornalista. Il dai, portavoce su del Napoli. Dai, su, ah, David. Ah. All'inizio del campionato. Statisticamente è una squadra che ha 5 punti dopo 6 giornate, non ha mai vinto lo scudetto. Quindi non vedo perché quest'anno debba cambiare. Devo dire la verità, devo dire la verità. Non è l'unico ad essersi sbagliato. Anch'io all'inizio dell'anno non avrei scommesso un euro sulla Juventus. Però, anzi, dicevo che lo scudetto l'avrebbe vinto la Roma, che comunque potrebbe arrivare seconda, Daniela da Bologna, vai Daniela. Pronto? Sì, mi sente? Sì, però ti sento male, cerca di metterti bene, male, Daniela. Male. Sì, sì, mi sente meglio adesso? Sì, sì, ti sento bene, dimmi. Perfetto, ti vuoi? No, non ti sento, guarda, non ti sento, cerca di piazzarti meglio, ti prego, ti scongiuro. Sì, adesso? Niente, va, Francesco da Napoli, richiamiamo, dai, Francesco. Ciao, buonasera. Dimmi, Francesco. Cusciani. Volevo intervenire per quanto riguarda una chiamata di un altro napoletano che ho sentito prima, che diceva che a Napoli se uno vuole lavorare, lavora. Tutti il se vogliono che lavorare, lavora, non diciamo stronzate, certo, dai, forza. Certo, no, assolutamente, ma il problema è come lavorare, perché poi a Napoli si fa presto, che vai a fare il parcheggiatore abusivo, vai a vendere il pane, vai. Il problema è questo, è come farsi sfruttare poi in una città come Napoli. Penso che prima di dire delle cose bisogna anche essere un po' più oggettivi. Senti, noi qui parlavamo realtà solo di una cosa, di un signore che ha in cioè, famiglia, che lui, sentito stesso, lui stesso ladro, il quale, cioè ladro, sì, ladro, cioè, uno che è stato condannato per furto, è stato anche in carcere, credo per furto, eccetera, il quale ha detto: io rubo perché lo Stato non mi dà, cioè dava agli altri la responsabilità del suo essere. Sì, è pazzesco quello. Questo è il punto fondamentale. Non c'è da parlare sulla disoccupazione, se no non finiamo più. È una frase ridicola. Lo dico con tutto il rispetto. Non voglio insultare nessuno. Mi sembra una frase fuori dal mondo, cioè tipica di un certo modo di pensare. Francesco, allora? Non deve essere un alibi questo è poco ma è sicuro. Però è anche vero che non dobbiamo nemmeno poi, cioè nel nome poi del lavorare, farsi sfruttare, lavorare in condizioni. Ma quello non c'entra niente, dai Giampaolo Pescara, dai forza ragazzi, non diciamo cazzate. Giampaolo. Ciao ragazzi. Dimmi. Allora, volevo dire che non ce la faccio più a sentire i ragionamenti dei napoletani, non ce la faccio più. Dai, quello è uno. È uno, ho capito, ma allora, quel papà che purtroppo riposa in pace il figlio, ha lo stesso modo di ragionare di due napoletani su tre. Perché chi è che in vacanza vi viene a importunare cercando di vendervi non so cosa, oppure cercando di abbordare la ragazza? Per me va tolto il passaporto ai napoletani, perché è una questione di immagine per l'Italia. Tolto vabbè, il passaporto ai napoletani, ma dai, su Giampaolo, non dire cazzate, dai, su. Allora, non dire cazzate, io purtroppo finché non cambiano il loro modo di ragionare, anche quest'ultimo. Ma anche qui, ma non si può dire tutti, poi generalizzi il loro modo di ragionare, ma che cazzo è? Che generalizzazione è il loro? Come se tutti i napoletani o tutti i meridionali fossero così, ma dai, una follia. Io vorrei dire al democristiano Parenzo. Ma quale democristiano ci sei? Diciamo tu, che è una mentalità abbastanza diffusa in certe parti del sud. Esattamente. Quella del signor Bifolco. Vorrei dire che l'educazione è un luogo comune, che come tutti i luoghi comuni, è una bestemmia. È un luogo comune, come tutti i luoghi comuni, ovviamente, no? Mi scusi, ma l'educazione che quel papà ha dato al figlio, cosa l'avrebbe portato a fare? Ma quello è evidente, ma lì è evidente, la cosa è talmente eclatante, ma che c'entra il sud o il nord, però lì, no, lì è c'entra, evidente sud che quel signore, che è un ex criminale o non so che cosa, per quali reati sia stato arrestato, furto. Ma è evidente che il figlio è cresciuto, ma non è neanche detto che se tu vivi in una famiglia di criminali diventi automaticamente, c'è solo generalizzazioni, come c'è dire. C'è un'alta probabilità, Ma chi l'ha detto? Beh, abbastanza. Se nasce una famiglia di ladri, diciamo. Ah, c'è... quindi diventerai automaticamente no, un ladro. Automaticamente no, però c'è una possibilità più alta rispetto ad un'altra famiglia, questo non c'è dubbio. Daniela, Bologna, vai. Sì, buonasera, mi sente? Adesso sì, vai. Mi sente? Sì, adesso sì. Ok, buonasera. Ascolti, io volevo fare un intervento a proposito dell'adozione di bambini da parte di coppie gay. E come mai? Che è successo di nuovo? Perché dissento fortemente sulla cosa. Sì, e ma quindi... perché ti è venuta in mente questa cosa? Perché ci pensavo e quindi volevo fare l'intervento. Voleva condividerlo, questo allora... mi sembra giusto. Niente, io dissento fortemente sulla cosa. Dissenti, vabbè, non è rilevante che dissenti. È fortemente innaturale, in quanto la natura vuole dell'altro, vuole che un bambino nasce da un uomo e di una donna. E vabbè, allora dopo questa banalizzazione, dopo questa banalità totale? Scusi, perché lei la definisce una banalità? Lei ha sì, vabbè, ragazzi, però parliamo di una cosa concreta. Siccome non è nelle cose di attualità, o ci dici una cosa di originale, oppure il fatto che tu sei contro l'adozione uomo da parte di coppie omosessuali, insomma, lascia il tempo che trova. Scusi, ma per lei l'originalità dove risiede? Vabbè, niente, non c'è niente da fare. Allora, dunque, tu sei contro l'adozione da parte dei gay. Poi, andiamo avanti. Sì, le volevo fare una domanda. Lei ha figli? Sì, io ho una figlia, sì. Ecco, bene. Quindi l'originalità dove sarebbe? Mi faccia capire. Sono io che faccio, figlia... amica mia, sono io che faccio le domande. Allora, al limite sono io che faccio le domande. No, io ho una figlia, dunque... Le posso fare anche io, visto che è una dunque... radio libera. Dunque, sì, ma lei può fare quello che vuole, dimmi. Allora, lei è contro... ma è sicuro che posso fare quello che voglio. Sì, ovvio che posso... lei è contro l'adozione... Non me lo deve dire lei. No, ma certo, lei è contro l'adozione gay. Poi? Tu conosci il popolo di Lot? Poi? Conosci il popolo di Lot, Crociani? Ma di chi con chi sto parlando? Di Lot, il popolo chi di è Lot. Lot. Il popolo di? Lot. No, il popolo di... Il popolo di Lot, non so chi sia. È un episodio biblico, è un episodio biblico. È un episodio biblico, bene, allora... Ah, lo conosci? Ma lei chi è, scusa? Non solo biblico. Ma lei chi è? Lei chi è? Io sono il marito di Daniela. Il marito di Daniela, che ha preso il telefono di Daniela, bene. Come si chiama lei? Come si chiama lei? Io mi chiamo Alan. Alan, bene. Alan, cosa ci vuoi dire, Alan? Dimmi. Musulmano. Sei musulmano, bene. Tu conosci il popolo di Lot? No, non conosci? No, ripeto per l'ennesima volta. Non lo conosco, lo conosce Parenze. Dunque, lo conosce Parenze. No, chiunque lo conosce, perché l'Antico Testamento io è lo la conosco. Storia del nipote di Abramo. Che cazzo vuoi da me? Non lo conosco. Vabbè, bene. È una roba che conosci chiunque. Non hanno fatto il popolo di Lot perché erano froci? Non ho capito. Si riferisce bene, all'episodio di Sodoma e Gomorra. Beh, è un ottimo, episodio della Bibbia, dai, non è difficile. Dunque... Sai che fine hanno fatto? Che fine hanno fatto? Il castigo divina gli ha tolti dalla faccia della terra. Sì. Perché uomini andavano con gli uomini e donne andavano con le donne. E dunque? E dunque faremo quella fine lì. Se lei dà ancora man forte a questi froci. Beh. Questo secondo il Corano, però scusa, perché secondo il Corano. Aspetta, allora, è molto chiara la cosa. Il signor musulmano, signor i musulmani, però devi spiegare perché. Aspetta, no, ma lascia perdere la spiegazione. I musulmani credono che Lot sia uno dei profeti, a differenza degli ebrei e dei cristiani, no? Sì. E l'episodio si riferisce a che cosa? A Sodoma e Gomorra, quando Dio castigò il popolo che facevano pratiche appunto sodomite, quindi lui fa riferimento a quella roba lì. Lui è musulmano e pensa che debba essere il castigo divino. Questo ho capito io. Scusa, Alan, tu pensi che i frosci vadano dunque eliminati? No, eliminati, curati magari. Curati. Se non vogliono essere curati, non gli daremo tutti questi diritti che lei vuole dare. Adottare i figli, hai capito? Fare tutta quella schifezza in giro in mezzo a questa società. Sì, scusi, lei è sposato con la signora Daniela, dunque avete un matrimonio, è diventata musulmana anche la signora Daniela oppure no? Guarda, lei è tornata nell'Islam come sono tornato anch'io nell'Islam. Ah, ma perché tu sei, in realtà non sei musulmano convertito? E sono tornato nell'Islam. Beh, sei tornato. No, perché nell'Islam si dice tornare. No, io non sono, io non torno da nessuna parte. Io non sono nato nell'Islam. Non sono nato nell'Islam. Sai cosa vuol dire essere musulmano, Parenzo? Io sono nato per i cazzi miei, amico mio, non nell'Islam, capito? Sono nato Giuseppe Cruciani sull'anagrafe, non c'è scritto Islam. Il tuo problema. Sei come la Sant'Anchè, quando parlano gli altri... Che c'entra la Sant'Anchè adesso? Che c'entra la Sant'Anchè? Alan, tu sei un convertito, giusto? Tu sei un convertito. No, non mi sono convertito, sono tornato, nato. Allora, perché per l'Islam non esiste la conversione, esiste sottomessa alle regole sì, di Dio. Sì, ma ho capito benissimo. Sei tornato nell'Islam, benissimo. No, lo dico per chi ascolta. No, sei tornato perché secondo la tua concezione, secondo l'Islam tutti sono musulmani, quindi a un certo punto abbandonano, uno ritorna. Grande io questo apertura, non lo credo. Grande apertura. Fatti loro, religione di grande apertura. Ma non lo so, pure per fare. Oddio, Ovvio che è grande apertura l'Islam, perché lei non sa niente dell'Islam. Sì, una religione, guarda, di una grande tolleranza l'Islam, è conosciuta proprio certo, per questo, di certo, una grandissima tolleranza, certo. Soprattutto dopo quello che hai detto adesso. In tutti i paesi arabi sì, e troverai tutte le chiese ovunque, le sinagoghe ovunque, e tutti possono pregare. Sì, guarda, c'è un paese libero, c'è il tuo paese Italia. Ma sei in Arabia Saudita, non trovi la sinagoga, ma non importa. Addirittura di chiamare la preghiera da un minareto, che voi, tra parentesi, la Costituzione italiana dice, sì, caro Parenzo, libertà di culto. Certo, io sono a favore della libertà di culto. Hai dissento capito, sul fatto Parenzo, che in Siria senti, in mi fai Siria, parlare invece di parlare in Arabia Siria Saudita, con Alan, che è meglio. Allora Alan, scusami un attimo, sì, perché parli io di ti ascolto, vedi che io ti ascolto. Allora vedi? i froci mm, no, mm, sono, vanno curati, hai detto, giusto? Vanno certo, curati. Come vanno certo, curati? Come certo? Come, certo, come vanno curati? Certo, come dire da certo, un psicologo, da qualcuno. Non lo so, anche con no, delle vanno curati, con, sì, con delle siringhe, con delle pasticche, con qualcosa. Che dici? Che ci sono delle terapie? Delle terapie per curarli, questo certo, l'Islam. L'Islam, l'apertura ma no, dell'Islam. L'Islam, questo qua. No, l'Islam, il signor convertito all'Islam. Ma questo qua, quello che è tornato all'Islam, Alan. Anche tua moglie la pensa così, Alan? Non puoi trasmettere la tua idea sugli altri. Io non sono convertito, sono tornato. Sei tornato, bene. Mettilo come un orecchino nel tuo orecchio. Non sei tornato, amico mio, non sei tornato all'Islam. No, sono tornato. Non sei tornato. Non no, sei, sono tornato. Ti sei convertito all'Islam. No. Non so per quali motivi, per quali oscuri motivi. Non sono convertito. Ma quante volte preghi? Quante volte preghi al giorno? Cinque volte al giorno. Benissimo. La prossima il che ora... il suo costo, il paradiso, la prossima che ora è? La prossima, sì, alle 8:10 minuti. Alle 8:10 possiamo collegarci per sentire la preghiera in diretta o no? Perché no? Alle 8:10 ti richiamo, ok? Preghiera in diretta dell'Isa. Ma è interessante questa cosa, voglio capire. Ma non ti sto prendendo in giro, Voglio capire come. Ma è semplice, lui stenderà un tappetino. No, voglio si sentire verso in diretta. Mecca, voglio sentire in diretta la sua preghiera, il 25 giusto, aprile, la preghiera di uno che è tornato. Ho detto bene, Alan? Ringrazio Allah, sì, ringrazio Allah che mi ha salvato. Bene, allora alle 8:10 ti richiamo il tuo io cellulare. Spero che ti salverà anche a te un vabbè, giorno. Ma adesso ma questo no, non ho bisogno. Non lo salva, fermola, no, ti richiamo alle 8:10. Di una parola nei confronti dei gay. Che vuoi scusa, dire? Scusami, Crociani, sì, perché non voglio vederti insieme a me in paradiso? Tanto questa, la vita terrena, è un passaggio. Sì, un d'accordo, passaggio. Ma tu, a te ti piace inchiappettare tua moglie? No, assolutamente no. No, no, cioè tu sodomia non pratichi? Assolutamente no. È un peccato? Certo, perché io non sono l'Islam, una bestia. L'Islam, io non sono una... un essere umano. Ah, perché chi si inchiappetta sono bestie. Ovviamente da noi si dice nel buco della merda ci va solo col badile. Signor Islam, mamma mia, questo che è l'Islam. Però. A tra poco, ti chiamo alle 8:10. Zanzare, Uakbar, Zanzare, Uakbar. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta la Zanzara. Sono tornato. Metti un orecchino nel tuo orecchio, signor Crociato. Mamma, sono tornato. No, sono tornato. No. Non sono convertito. Sono tornato nell'Islam. Ideona, facciamo il rosario della Zanzara. Ogni tastino si accende un commento di Donato da Varese e i vari, mettiamo tutti. Allora, caro Parenzo, a Pordenone si candida come sindaco, leggo, apprendo dai quotidiani locali, sì, il limitatore del Duce, te lo ricordi? Il signor sì, Polegato, ristoratore. Ah, sei l'ubriacone, sì, no, sì, ristoratore, sì, sì. Dai, ristoratore, un Ferdinando cretino, Polegato, un cretino, uno cretino, che ha un ristorante in cui si mette là a imitare il Duce. Te la ricordi l'imitazione del Duce come fa? Non me la ricordo. Ma non lo so, imitazione patetica. Com'è l'imitazione del Duce? La parola d'ordine è una sola. È lui, Polegato. Categorica.

E vinceremo, ricordi? Sì, con un carico di letame. Ma perché devi bere già delle prime ore della giornata? Che vermi non eletti, non rompetemi i coglioni il 25 dicembre, che è un giorno di lutto per me. 25 aprile, ma è tutto sfasato. Sì, ma si vuole candidare e non sa neanche che periodo dell'anno siamo. Ma questo è pazzo, ma neanche il condominio gli si può... È il 25 dicembre, è Natale il 25 dicembre, somaro d'un somaro. Non ha neanche la concezione del tempo. Sto povero idiota, ma è una roba incredibile. Sei un'attrazione da circo, no? Sei sui giornali. Ormai il circo per te. Mamma mia. Non ti mettono neanche con gli animali, perché preferisco gli animali che te, Parenzo. Manca soltanto la donna barbuta là dentro. La donna barbuta devi candidare. La donna barbuta, il nano che salta nel cerchio di fuoco. Quello devi fare. Piuttosto di te, candido anche una merda di quelle. Ma ecco, metti lei in lista, che manca solo quella. Comunque. Polegato, che ne pensi degli omosessuali? Allora, gli omosessuali maggiorenni mi va bene, a me non mi piace il discorso che adottino dei figli, per me dire avendola, ti dico, io gli farei una castrazione chimica e lo impalerei, punto. Quel pazzo. È difficile trovare il palo grande. Ma io spero che lo querelino, ma veramente buttino via la chiave. Che mi querelino, guarda, ma come si permette? Lo impalino. Ma che c'entra? Ma questo è pazzo, ma gli devono chiudere il locale anche. Ma siamo impazziti. Ma che c'entra avendolo in palo? Io sono libero. Allora siamo in democrazia, hai detto il signor. No, non di dire stupidaggini. La democrazia non è insultare e dire puttanate, hai capito? Ascoltami una cosa, uno che adotta i bambini per me va castrato chimicamente, capisci? È impalato, è un matto. È impalato pure, dici. È impalato anche. E mio nonno e mio padre mi ha sempre insegnato che la famiglia è composta da un uomo e una donna. I figli nascono da un uomo e una donna. A me non ho mai sentito che due uomini devono fare. Io sono contrario, posso pensarla così o dovete cambiarmi voi la mia idea? No, per carità, per carità. Allora, io e con questo voi. Chiudiamo. Vincere, meglio. Vincere. Manda a fanculo Parenzo, va. Ciao Parenzo, stammi bene che ti vengano le emorroidi. Ciao. Ciao, ciao, ciao, ciao. So you think you'll take another piece of me to satisfy your intellectual need. E con questo direi che la corsa di Polegato a sindaco di Pordenone, sì, può definirsi, meno può male, ritenersi, no? Conclusa. Conclusa definitivamente, ancora prima di partire, benissimo, meglio, meglio. Non ne sentiremo la mancanza di questo putrido personaggio. Vai impalato, ma sì, sì, ma adesso gli arriva tutto il conto a casa. Io mi auguro che Vendola veramente gli porti via tutto, ma deve avere una sanzione esemplare questo qua. Dici che gli portano via il ristorante a sto Polegato? Dici. Ma no, perché fa schifo, quindi già quello non vale niente. Ma che gli devono dare come una sanzione esemplare, ma esemplare. Alessandra Latina, ma scusa, uno sarà padrone, certo. No, non è padrone. Quello che ha detto su Vendola è pesantino. Non è padrone di dire quello. No, non è padrone. In questo caso non c'entra la festa di liberazione. Bisogna liberarsi di personaggi come questi qua. No, uno non è libero di dire quel che vuole. Alessandra Latina, Alessandra, vai. Buonasera. Dimmi Alessandra, dimmi. Io sono la ex prostituta. Sì. Ti volevo dire che quello che ha detto mio marito giovedì, se non sbaglio. Ah, Alexandra, tu sei la moglie di quell'ascoltatore che ha chiamato dicendo che ha sposato una prostituta, giusto? Sì. Ah, io e sei tu in persona, sì, la ex. Sono io, la ex in persona. Sì. Ti volevo dire che tutto che lui ha detto è la verità. E vabbè, d'accordo, quello non lo mettevamo in dubbio. Tu sei facevi, quanti anni hai fatto la prostituta? 2 anni e mezzo. 2 anni e mezzo, dalla Romania. Perché non si sente mai in cazzo quando uno ci sono i personaggi così importanti, serissimi, eccetera? Bene. Allora, Alessandra, hai fatto 2 anni e mezzo la prostituta. Come hai conosciuto tuo marito? Te ne sei innamorata subito? No, perché hai cambiato poi, più che altro? Perché ho cambiato, perché non mi piaceva più. Appunto, perché mi sono innamorata di un ragazzo che mi ha offerto un bambino di qualche mozza, 4 anni, sì, che è la mia vita. Ho capito, tu guadagnavi di più però facendo la prostituta, no? Sì, guadagnavo, ma quello che guadagnavo mi sono aiutato nella mia famiglia. Senti un attimo, ma tu eri una schiava? Non ho guadagnato un altro uomo, tipo come sono di papponi, quelli che menano, che obbligano le donne a fare la cosa che ho fatto io. No? Ma non ho capito, tu avevi un pappone? No, non io avevo. Ero da sola. Da sola sulla strada? Sulla strada, ho fatto 2 anni e mezzo questo lavoro, dopo ho incontrato mio marito, mi sono innamorata, l'ho sposato e ho fatto questo bambino. Scusa Alexandra, mi sembra più brasiliana però sudamericana che romena, come dice tuo marito. No. Romena, no. Tu sei romena. Romena. Quant'è che guadagnavi, ricordaci un po', al mese quando facevi la prostituta? 6.000, 5.000, dipende dalle serate. 5-6.000 euro al mese, ovviamente tutti in nero, caro parente. Sì, era serate che non facevi proprio niente. E che ci hai fatto con tutti quei soldi? Che ha fatto? Soldi ho fatto la prima cosa il stipendio che il debito che c'avevano i genitori di confronto di una persona che mostrano è contento che siamo dati i soldi, e mi sono comprato un bell'appartamento. Ah, dove? In Romania? In Romania? Sì. Lo vedi, Parenzo, che alla fine Alexandra, certo, il lavoro era duro, immagino, eccetera. Beh, ma tu era durissimo. Immagino, appena ha potuto avrà incontrato le persone più svariate, no? Da brave più persone. Anche. Ho contratto tantissime persone che non ho contratto in tutta la mia vita. Vabbè, non voglio più. Vabbè, certo, ma la cosa peggiore, mi pare che abbia un bel ricordo. La cosa peggiore momento. La cosa peggiore che ti è successa qual è? Che mi ha rubato la borsa con 800 euro dentro, e pure il documento. Ma meno male, ti andava bene. Ho detto la cosa peggiore, che ti hanno rubato i soldi. Pensavo che ti avessero picchiato, che ne so. No, di picchiato non mi ha picchiato. Mi ha solo rubato la borsa, il telefono e tutto quello che stava dentro. Vabbè, che comunque, grazie a quel lavoro lì, sei riuscita alla fine a comprare una casa. Ma che c'è, ma non lo rifarebbe mai? A sanare i debiti, a qualcosa è servito o no? A nulla. Io ritornare là non ritorno neanche se mi danno tutti i soldi del mondo, ve lo dico la sincerità. Mo sto bene dove sono, sto felice con mio marito, con mio figlio e con quello lavoretto che ce l'ho. Va bene, ciao Alexandra, ciao. Zanzarosi, contattateci all'800240024 o via WhatsApp al 393 71 71 701. Eccoci qua con noi Vittorio Feltri, buonasera. Caduta la linea, aspetta che lo riviamo. Anche lui è giusto, visto? Andrea Macerata intanto, dai. Andrea? Niente, Francesco Ferrara, vai. Ciao, buonasera. Vai, dimmi. Ecco, io volevo fare un intervento riguardo all'Austria che sta per chiudere le frontiere ancora. Sì. E volevo dire che secondo me fa benissimo, perché comunque quando io ho sentito anche il programma prima del vostro, focus economia, tutti questi problemi, il camion fermo costa 60 euro all'ora, andremo male tutti, centinaia di miliardi di euro per questi camion fermi. Però io voglio ricordare che quando c'erano le frontiere in atto, tutto andava meglio di adesso, quando avevamo la nostra vecchia moneta. Cioè, non mi sembra che le cose, almeno io adesso ho 40 anni, posso dire che a me, anche se mi fermano per chiedermi i documenti, io non ho nessun problema. Ma che c'entra? Cioè, sembra che tutta questa libertà serva solo a favorire persone che girano magari per fare traffici. Perché secondo non me lo so, secondo me non durerà molto questa roba qua del Brennero. Ma scherziamo. Durerà poco. Comunque ogni sta paese sta già durando troppo. Ogni paese, secondo me, per dare dei segnali, perché ognuno a casa sua può fare quello che vuole. Non capisco qual è il problema se l'Austria vuole bloccare il Brennero perché pensa che altrimenti entrano troppi immigrati. Non vedo, è un problema. Non vedo qual è il punto. Cioè, francamente non vedo qual è il punto. C'è un paese che vuole organizzare la propria sicurezza. Così, però. C'è un paese che vuole organizzare la propria sicurezza. Quando c'è un un contesto diverso, qual è quello di oggi, dell'unione tra stati. Ho capito, però, però l'Austria è intanto... fa quello, dice, guarda, io oggi chiudo le frontiere, come? Ci sono più le frontiere da Schengen, poi chissà perché, però lo può fare, nessuno interviene. Dunque, ogni stato, per regolare la propria... quando non c'è la sanzione, ogni stato può regolare la propria sicurezza in alcuni momenti come vuole. Non lo trovo sbagliato, francamente non lo trovo, siccome l'Europa non fa una mazza, ogni stato ancora ha dei margini per fare valere le proprie ragioni e per fare quello che gli pare. Non mi pare una cosa così bizzarra, siccome l'Europa poi non è in grado di risolvere alcuni problemi, perché lo si è visto, il fatto che ci sia un paese che momentaneamente prende dei provvedimenti per tutelare quelli che quel paese là pensano siano i suoi interessi, non lo trovo una cosa così scandalosa. Scusatemi, non lo trovo così scandaloso. Eccoci Vittorio. Eccomi qua, buonasera a tutti. Eccolo. Come andiamo? Molto bene. Ottimamente, grazie. Senti, hai festeggiato il 25 aprile oppure oggi è più importante lo scudetto da Juventus del 25 aprile, come ho detto? Beh, mi sono guardato fino adesso anche Carpi Empoli, per quello. Carpi Empoli. Certo che il 25 aprile a me non importa niente, assolutamente. Più importante il, come dire, un tempo di Carpi Empoli, caro sì, Parenzo. Io sento adesso perché sono collegato con voi, altrimenti ti saresti visto pure Carpi Empoli, sì, pure sì, il secondo tempo di Carpi Empoli, caro Parenzo. E ti che devi, fare? Ti devi arrendere, ci sono persone che questa ricorrenza è il 25 aprile proprio, ma noi la stiamo celebrando il 25 aprile, perché una radio più libera di questa, ma se non avessero è che la libertà vinto quegli dal 25 altri, aprile è un discorso ma certo, più ampio, se avessero più complesso, vinto quegli altri non potremmo dire tutto quello che diciamo, ma che qui c'entra gli americani, le cose, ma più, che americani, più complesso, dai. Senti, voglio chiedere a Fetti una cosa, Vittorio, ma la Pascale che dà del troglodita a Salvini, ossia, non ti sembra una cosa abbastanza inaudita? Cioè è la fotografia di quello che è Berlusconi, di come è ridotto Berlusconi, o no? No, non credo, perché io personalmente ho simpatia per Salvini, quindi non condivido l'opinione della signora Pascale. Sì. Però credo che sia suo diritto esprimere un'opinione che è sempre legittima, e questa opinione non credo che sia quella di Berlusconi, quantomeno quando parla la signora Pascale parla a titolo personale, no? Riflette le idee del suo cosiddetto compagno, anche se la parola mi fa orrore perché mi ricorda il 25 aprile. Sì, no, la parola compagno, d'accordo, però c'è anche da dire una cosa, che la Pascale però non è l'ultima arrivata, cioè non è... No, è l'ultima, mi pare, delle sue fidanzate. Sì, l'ultima delle fidanzate è vero, sì. Da questo punto di vista sì, però non è l'ultima arrivata, cioè nel senso che ha un peso all'interno di quella cerchia, come dire, no? Berlusconiana... Non penso che Berlusconi sia arrivato al punto a farsi influenzare, diciamo così, dalle sue signorine, signore, e quindi neanche dalla Pascale. Non credo che la linea politica sia dettata da Francesca. Penso che sia in grado Berlusconi di sbagliare da solo senza ausilio. Senza ausilio, sì, questo può darsi, ma io trovo assurdo che, tant'è che poi la intervistano, no? Che la compagna dell'ex presidente del Consiglio, in una situazione così delicata in cui ci sono le alleanze da fare, Roma, eccetera, eccetera, dia del troglodita all'uomo che è poi l'uomo forte in questo momento della coalizione. Comunque, fermi un attimo, c'è la pubblicità. Scusate, toglietemi tutto, ma non la zanzara. La zanzara. Cruciani, il mio ragazzo dice che sono ossessionato da te e ha ragione. Cruciani, tu sei uno stronzo, sei fastidioso, sei spocchioso, sei strafottente, ma io ti amo. Allora, con noi Vittorio Feltri. Caro Vittorio, tu pensi dunque che sia legittimo che la compagna di Berlusconi dia del troglodita a Salvini? Non c'è dubbio, non c'è dubbio. Ma sì, ma certo che è legittimo, è chiaro che c'è la libertà di espressione, ognuno può dire quello che vuole. Ma persino le fidanzate possono dire. Persino le fidanzate, per carità. Però non dimentichiamoci che la signora Pascale è napoletana, quindi sì. È chiaro che non abbia in grande simpatia la Lega, né tantomeno il suo leader, cioè Salvini, quindi non mi stupisce. Poi il termine troglodita effettivamente non è dei più felici, però esprime, diciamo, in modo quasi paradossale un'opinione di, che è poi improntata all'antipatia. Sì, però siccome, come sai, sembra che il cerchio magico intorno a Berlusconi non abbia molto in simpatia Salvini, tutto torna, no? Anche nella questione di Roma. Ma perché Berlusconi non riesce più a mettere a posto le cose? Qualcuno dice perché vuole perdere in realtà con Renzi. Ma io non credo che voglia perdere, è che non riesce più a vincere, quantomeno è in difficoltà. Non dimentichiamo che è stato anche buttato fuori dalla politica, dall'agibilità, diciamo, completa, e poi ha avuto anche un sacco di problemi interni. Il famoso salame è stato affettato da tutti e adesso non è rimasto più niente, quindi Berlusconi è palesemente in difficoltà, no? Questo non si può negare, e tuttavia non penso, non riesco a pensare che le cause siano la Pascale oppure, che so io, la Bergamini, le persone che lo circondano, che magari non lo aiutano molto, ma sicuramente non... Cioè è lui il problema, dice, alla fine è lui il problema. Penso di sì. Penso. Cioè non dovrebbe si può farsi da parte. Ma da parte, finora comunque... Certo, peso ce l'ha ancora, perché come si è visto nella scelta di Bertolaso, lui si è imposto, poi non so con quali risultati pratici, però... Cioè, piuttosto adesso... che non cedere a Salvini e alla Meloni, dai, è disposto a perdere a Roma, dai, questa è la... Salvini o non Salvini, a Roma si perde comunque, non c'è... Beh, se la Meloni arriva al ballottaggio non è detto, eh. Beh, se la Meloni arriva al ballottaggio, Berlusconi perde la leadership, però, a quel punto. Infatti, perché la Meloni non la voleva Berlusconi, esatto. Quindi... Se la Meloni vince, vince la Meloni, non vince Berlusconi. Sì, no, certo, su questo non c'è dubbio. Senti, ma col Milan che deve fare, secondo te? Ma il Milan... Che pure è messo male pure il Milan, eh? Sì, ma anche perché Berlusconi da parecchio tempo insiste nel sollevare dall'incarico gli allenatori, esatto, quando invece i problemi riguardano la squadra e la società, che non mi sembra goda di un grande equilibrio, almeno da 3-4 anni a questa parte. E quindi anche questo è un sintomo di scarsa lucidità, dal mio punto di vista. Cioè, scarsa lucidità nel senso, nemmeno col Milan riesce a mettere le cose a posto. Sì, non fa altro, non fa altro che licenziare. Si è complicato negli ultimi anni, quindi diventa difficile, a parte la Juventus. Le ma vuole vendere o no? Non ho capito, secondo te? Secondo me vende, ma secondo me non c'è nessuno che compra al prezzo che lui pretende. Sì, comunque quelli vogliono. Io ho una casa che non riesco a vendere perché evidentemente voglio più soldi di quanti siano gli altri disposti a dare. Sì, sarà così, sicuramente sarà così. Senti, ma a proposito, ma tu che conosci bene le cose dall'interno, ma com'è la situazione tra Sallusti e la signora Santanchè? Cioè, questo è un mistero, perché diciamo che i miei rapporti con Sallusti sono cordiali, e anche con la signora Santanchè, tant'è che quando ho saputo che c'era stato un disguido, chiamiamolo così, ho mandato un messaggino a Daniela dicendo che insomma aveva fatto anche una buona cosa, che ha preso un bel giovanottone che piace molto anche mia moglie, ho detto scherzando a lei, e lei mi ha risposto grazie, però le cose non stanno così, quindi lì non ho ben capito se in effetti ci siano state le corna, non ci siano state. Devo anche dire che la vicenda non mi sta particolarmente a cuore e quindi non ho approfondito. No, certo. Per cui tu dici le corna non sono confermate, diciamo, no? Non sono confermate, poi mi sembrano ininfluenti, perché le corna sono il cemento dell'amore, specialmente molto bene, di unioni pseudomatrimoniali. Beh, insomma, assolutamente. Sono eccitanti le corna, no? Beh, sì, assolutamente. Assolutamente. Ragazzi miei, se vi piace essere cornuti, no, sto dicendo, se ci fossero, sono tutta la vostra solidarietà. Se ci fossero le corna col ritorno, naturalmente, no? Con il ritorno poi nella casa madre, questo non può che essere salutare. Cioè, no? Anche a Parenzo non piacciono le corna, ma si guardi in giro e c'è una foresta di corna. Ma giro. Quello io mi guardo in giro, sicuramente accolgo l'invito del direttore, però non le auspico. Quando sfottiamo i cornuti, dobbiamo stare attenti, perché di solito le abbiamo in testa anche noi, quindi attenzione, ci vuole un po' di prudenza. Dunque, attenzione a sfottere, per esempio, la Santanchè o Sallusti per queste cose. Ma tu come lo vedi al giornale? Lui è sereno, eccetera, oppure è un po' abbattuto per questa vicenda? No, assolutamente, non l'ho mai visto sereno come in questo periodo. Addirittura. Sì, sereno. E fra l'altro non credo che abbia molti motivi per essere sereno, visto come sta andando il centrodestra, che a lui sta particolarmente a cuore. Ah, tu dici che sta a cuore il centrodestra. Molto lui, più di quanto non stia a cuore a Feltri, giustamente. No, questo non c'è dubbio. Che cazzo gli avrebbe? Ma a proposito, sempre meglio l'Empoli. Resti al giornale o no? Io diciamo che ancora per una settimana resto al giornale. E poi non rispondo delle mie cattive azioni. Poi non rispondi delle, cioè, tue potresti dirigere l'unità, ad esempio. No, bellissimo, l'unità mi sarebbe. No, stupendo. Dipende dal reddito che potrei avere all'unità. Vedi, questa è una risposta che viene. Cioè, questo è interessante. Cioè, Fenti potrebbe, se gli offrissero una cifra importante, potrebbe anche dirigere il giornale fondato da Gramsci. Beh, scusami, mica sono prete io che ho giurato eterno amore e fedeltà. Stiamo scherzando. No, scusa, non ho capito. Per una settimana poi non rispondi delle tue azioni, significa che probabilmente lasci il giornale. Può essere. Beh, clamoroso al Cibali. Beh, non sarebbe poi una gran tragedia, credo. No, la gente non credo che per strada si strapperà i capelli. Beh, però nessuno si metterà a piangere. Tu invece potresti essere contento, invece, da un punto di vista. Altrimenti non me ne andrei. Altrimenti non te ne andresti. Chiaro. Ma mi sembra chiaro che se ne va. E direte, chissà cosa andrà a fare. Cioè, il direttore oppure no? Tornerai a fare il direttore? Ormai io faccio il cronista. Il battitore libero, diciamo. Il battitore libero. Ma sì. Cioè, non fai più il direttore. Ero abbastanza libero anche come direttore, no? Del tutto, però insomma. Però chiusura di giornale. I miei spazi me li ero conquistati. Vabbè, ciao Vittorio, ciao. Saluti. Allora ragazzi, fra poco cercheremo di fare un collegamento con quel tizio che vuole fare la preghiera. È clamorosa però sta notizia, Ma è clamorosa. Forse nel mondo dei media, sì. Perché insomma sono in tanti a seguire Feltri. Enrico da Bergamo. Ci ha fatto capire che lascia il giornale, in sostanza. Enrico da Bergamo, dai. Pronto? Dimmi. Allora, scusa, tolgo la mia voce. Vai. Come cavolo si fa qua? Vai, Enrico, su, dai, vai. Vabbè, comunque volevo dire all'amico che ha chiamato prima dicendo che la Costituzione italiana dà dei diritti, dà anche dei doveri, no? E personalmente ritengo che, ad esempio, no, la Costituzione italiana non favorisca la menzogna. Vabbè, che non vuol dire? Dai, vai al sodo, amico mio, dai. Il Corano andrebbe proibito in base alla Costituzione italiana, perché... dato che tu dici che l'Islam e dunque il Corano è in contraddizione, in contrasto con la Costituzione. Perché meno male la Costituzione dice che qualunque ideologia politica o religiosa, chiaramente, che sia contraria alle leggi dello Stato, ho capito, no, non può essere divulgata. E nello stesso tempo il Corano invece istiga alla differenza tra uomo e donna, istiga alla violenza sulle persone, anche all'omicidio, no? E istiga alla menzogna, no? La famosa dissimulazione, tutte cose che perciò sono contrarie al nostro ordinamento giuridico. Perciò il Corano, se fossimo, diciamo così, corretti nei confronti della nostra Costituzione, il Corano dovrebbe essere proibito esattamente come il Mein Kampf. Ho capito. Stefani a Roma, dai. Ciao, sono d'accordo con l'ascoltatore di adesso. Ma come si fa a paragonare un libro sacro a sentire l'islamico di prima che ci ha chiamato? Cosa ne pensa? No, con l'islamico di prima, io sono d'accordo con quello che ha parlato adesso. No, dico, a sentire l'islamico di prima, è chiaro che uno pensa che questi cazzo sono tutti matti, no? Hai sentito che ha detto sui... No, sì, lo so. Ma io non farei queste generalizzazioni, mai. Cioè, a me mi ha dato... Quello poteva essere pure cattolico, protestante, non me ne frega, una bella amata ceppa. A me quello che mi dà fastidio, che quello si è messo a parlare la gente dicendo froci, cioè è proprio quello, lo fanno anche culturale. Con i suoi connazionali italiani, lo so, ma qui non ci evolveremo mai. Cioè, abbiamo già i cattolici che ci rompono i coglioni, e il matrimonio, e il divorzio, e l'aborto, e ogni cosa per gli altri è normale e per noi deve essere una conquista. Ci mancano solo i musulmani, cioè questo non ne usciamo più. Vabbè, non usciamo proprio più, capito? Cioè, sta gente si deve imparare che la religione è una cosa, la vita sociale è un'altra. Cioè, qui ci deve stare spazio per tutti, capito? Per tutti, e ci vuole il rispetto. Manca il rispetto. Ciao, allora, Stefano, grazie, posso... grazie. Simone, Lecce, vai. Salve, volevo dire, cioè, io non sono abbastanza d'accordo quando David Parenzo fa le sue ovvietà, per quanto riguarda pure il discorso del tradimento, tutte queste cose qua. che sono assolutamente normali. Beh, senta, non è un'ovvietà. Se a lei piace tornare a casa e trovare la sua compagna, ma la moglie, ha letto con quattro amici suoi, se le piace così, le lascio questa libertà. A me, francamente, non piace. Sarò, come dire, non moderno, noioso, democristiano. Se a lei piace tornare a casa, con un mazzo di fiori, bussare alla porta, toc toc, dici chi è? Sono Ciro, come si chiama questo qua che parla, Giuseppe, come si chiama questo? Come si chiama? Simone. Sono tornato, amore, sono Simone. Ah, un attimo, aspetta. Apri la porta e la trovi con quattro persone. Se ti piace così, divertiti. La realtà è un'altra. Ma in realtà è un'altra. Ragazzi, se parlate insieme, non vi si capisce. La riflessione interessante è che questo qui è felice di essere cornuto. Mi fa piacere per lui. Può essere che lo sia anch'io, non lo nego. Dico semplicemente che a me non piace. Non mi piacerebbe tornare a casa e trovare, evidentemente a Simone piace, e trovare la sua compagna, ma la moglie, a letto con quattro persone. Se gli piace, sono contento per lui e gli consiglio di tornare a casa presto, perché tra poco i quattro se ne vanno via. Simone. Quindi se torna a casa si diverte pure. Simone. Quindi se gli piace, vada a casa veloce. Vada veloce. Dimmi. Il monologo? Dimmi, Simone, dai. Vada a casa veloce che li trova ancora. Le do un consiglio, non si preoccupi come reagirei io. Le consiglio di andare a casa, che si diverte. La vita, allora non la si diverte più, pure. Vada a casa. Non le vorrebbe più bene. Fermo. Stiamo facendo una grigliata di classe. Alla faccia di quei coglionazzi dei vegani. La Zanzara. E intanto, caro Parenzo, continua la saga di Severino Antinori, il ginecologo che qualcuno soprannomina il Frankenstein della ginecologia, capace di far diventare madri donne di oltre 60 anni. A lui viene impedito l'ingresso a Roma e bloccato perché la moglie lo accusa di stalking. Il tribunale ha disposto il divieto tassativo di mettere piedi a Roma. Non puoi andare a Roma, non puoi andare a Roma. Vado a Nepi a visitare, a 13 metri da vicino allo stadio, perché è provincia di Viterbo, hai capito o no? E così l'inculi, dice. Ho girato, bravo. Ho capito, però. Mi sostiene, bravo. Ho capito, amico mio, però tu non puoi andare perché... No, io vado a Nepi, visito tu, anche molti dei carabinieri, a Nepi. Vuole andare a Nepi. Fra poco continuiamo, eh? Antinori contro la sua famiglia. Intanto abbiamo l'islamico da Bologna. Daniela? Sì, sono il tizio di Bologna. Vai, Alan, hai iniziato sta preghiera? Il tizio di Bologna musulmano. Alan, hai iniziato la preghiera o no? Ciao, pallino. Hai iniziato la preghiera o no? Te. Sì, ho pregato già. Vuoi sentire come si prega? Fammi sentire una preghiera all'islam, dai. Allora, intanto... Si fa richiamo alla preghiera. Sì, come si fa? Dice, e si dice con un canto, sì. Si dice, ascolta. Dimmi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Vuol dire Dio è grande, sì, Dio è grande. Sì, poi? Ashhadu an la ilaha illallah. Testimonio che esiste solo un unico Dio, poi? Dio di tutti. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Vuol dire testimonio che Muhammad, il suo profeta messaggero. Poi? E poi si dice Hayya ala salah. Hayya ala salah. Che cazzo venite vuol a dire? Pregare due volte. Sì. Hayya 'alal falah. Poi? Hayya 'alal falah. Se per voi è normale. Beh, è una preghiera, questo va benissimo. Andate a vivere, poi si dice Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Vuol dire Dio è grande, Dio è grande, esiste solo un Dio di tutti. Bene. Questo è il richiamo per la preghiera. Senti, ma la donna com'è considerata nella tua concezione? La donna è la dolce metà dell'uomo. La dolce metà dell'uomo, questo è una cosa banale, ma per esempio, secondo te può guidare la donna? Sai cosa dice il profeta Muhammad? Cosa deve fare la donna? Secondo te può guidare, per la esempio? La donna può fare tutto quello che fa, sì, l'uomo. Sì, sicuramente è così. Infatti in molti paesi lei sta parlando della società dell'Arabia Saudita, signor Crociani, sì, o dell'Islam? Dell'Islam in generale, dove no, la donna... caro. No, caro, no, lei, caro. Lei non è afferrato in materia. Sono afferratissimo. No, perché se lei mi dice la donna può guidare, sì, io le dico la donna può guidare. Sì. Però se mi parli della società tribale, sì, dell'Arabia Saudita... Cos'è che non può fare? Cos'è che non può fare la donna, secondo te? Eh? Cos'è che non può fare la donna? Per esempio, può non tradire... Non può tradire l'uomo. Non può tradire l'uomo. Se tradisce l'uomo... Non può farti cornuto. E se tu invece tradisci l'uomo? Assolutamente. Assolutamente? Non può neanche l'uomo. Ma se la donna tradisce l'uomo, che succede? Uguale, sia l'uomo che la donna. Va punito, l'adulterio va punito. Certo. Certo. Io non capisco. Se tu non hai donna, perché non ti divorzi? Non ho capito. E dunque come deve essere punito? Anche con, che ne so, con delle frustate, col carcere? Cosa? Come deve essere punito? Come l'ha voluto Allah? E come? Dio che ha creato tutta l'umanità. Con la lapidazione, come? Sia l'uomo che la donna. Lapidati. Pronto? Alan, fermi tutti. Cruciani, siamo a 6 km dalla dogana di Chiasso. Ci fermiamo al Maxim. La Zanzara. Cazzo Parenzo, sto guardando fuori onda sulla 7. Figa, ma è proprio una faccia da pirla. Cruciani, dai un biscottino a Parenzo, così la smette di abbaiare. Parenzo, sono in ospedale da 12 giorni. Il menù comprende pastina o minestra di riso. Di secondo, pollo bollito con purè o insalata, formaggino per i vegetariani, frutta fresca o frutta cotta. Lo chiami tu il prefetto? Non so se hai visto, caro David, quella foto pubblicata dal Corriere della Sera, in cui, sì, dei ragazzi a Lungotevere, 11 sì, ragazzi, sì, si sono messi a urinare contro il muro della banchina del Tevere. Ovviamente c'era un pubblico in alto, diviso tra indignazione, incredulità, divertimento, eccetera, eccetera. Io penso che sia quasi un gioco, uno scherzo, però certo che no. Roma, beh, non si può tollerare, spero, no? No, ma non dirai, tu capisci? Chi se ne frega, si no, può fare di ovunque. Ma... quelli erano da prendere, sì, da multare, ma non c'è controllo da mandare la foto a casa, ma non dai c'è genitori, controllo per queste cose. E poi cose, prenderli e fargli pulire per un mese i parchi pubblici della città. Sì, ma non c'è controllo. Ma non c'è controllo. Non c'è controllo. Una volta fatta la foto, individuati, così andrebbe fatto, capito? Ma che individuati, sì, ma là devi pizzicarli subito, cioè devi pizzicarli capito, subito. Ma adesso tu vai, si riesce a catturare i boss ma mafiosi? Allora si possono anche catturare questi 10-12 imbecilli, sì, presi a casa, multati severamente, portati con delle belle divise dell'atta, come si chiamano, dell'ama, della gloriosa ama, a pulire i gloriosa, sì, solo tu chiami, sì, gloriosa l'azienda municipale della l'ama, della l'ama, pulizia a Roma. I lavoratori, dai, dell'ama vanno rispettati perché tengono pulita la città. Fermi tutti, presi, continua la saga di Antinori bloccato dalla moglie fuori Roma. Senti come ricostruisce la vicenda, incredibile. Antinori's life. Io l'accuso qui direttamente. Posso chiederti una cosa? Non andare a casa mia. Lo sono andato a casa mia. Ma chi? Facciamo il punto. Quale per entrare durante questi 6 mesi? Severino. Tenendo chi parla lui. Chi? Poteva andare a casa mia quando era a casa mia. Perché veniva? Ma i carabinieri. Severino, scusami solo un secondo, un minuto. Fammi parlare 20 secondi. Non poteva andare a casa mia. Aspetta un attimo. Fammi parlare. L'arma di carabinieri non poteva entrare a casa mia. Ma chi te l'ha detto? L'arma di carabinieri ha fatto, come secondo me, sono i miei avvocati, Taormina. Un reato. Taormina. Ci mancano dei reati gravi. Però ma ho capito? Davide, ma fammi parlare! Fammi parlare un secondo! Lui quando c'era lui, capito? Aspetta, che ti devi chiedere una cosa, Davide. Fammi aspetta. Parlare un secondo. Quando solo c'era perché... lui? Sì, quando c'era quando lui. Quando c'era lui, Carabini. Allora, io ho capito questo, scusami, Severino. Nell'ordine, in 30 secondi mi dici se. Allora, io ho capito che c'è un. Non interrompermi, però. Che c'è un ordine del magistrato che tu non puoi mettere piede a Roma. Poverino, hanno... il magistrato si è mal informato. Poi, vabbè, due. Poi. Io okay. Vado, mento, martedì mi ha chiamato. Aspetta, vabbè, aspetta, ma sì, manca il soggetto e il verbo. Fallo due, finire un attimo. Due, ho capito che sei accusato che qualcuno ha stalking nei confronti di tua moglie e di tua figlia, anche violenza. Non esiste, vabbè, d'accordo. Terzo punto. Terzo. Non terzo mica sta andando mia moglie, andando a terzo punto, ho capito che tu vuoi denunziare l'arma. Vediamo se è tutto chiaro. L'arma, volete tutti quei soldi fatti tutti, arma dei carabinieri. Questi signori che hanno fatto i guardi del corpo, che hanno abusato e sono dentro casa mia. Poi ho capito che ci sono delle bodyguard. Vediamo se ho capito. Bodyguard, delle bodyguard. Si chiama un certo Mario. Ma non me ne frega niente il nome. Il proprietario fa pagare tanto al giorno a mia figlia, a mia moglie. Perché cosa questo bodyguard? Ecco, c'è un bodyguard che è stato preso da tua moglie, sì, che vive in casa. Vediamo se ho capito. Questa storia è incredibile. Che c'è un bodyguard, dimmi se ho capito, però. Un bodyguard. Bravo, dentro casa. Che, dentro casa. Che va anche a stanza di mia moglie. Che sì, deve fare la guardia a tua moglie e che si tromba tua moglie anche forse così. Anche, forse non lo so. Antinori's life. Continua, senti. Storia terribile, però. Senti. Ma è vero che hai messo le mani addosso a tuo figlio o no? Mai. E questo bisogna dirlo. Se metti le mani addosso faccio male, scusa. Non lo so, ma appunto, non sai niente che facevo io. E che ne so? Sono capelli italiani dei leggeri nel 80-60. Dei leggeri, appunto. Dei leggeri. Chiedi a coso, chiedi a Efrati. Conosci Efrati? Chi? Efrati. Non lo so chi è. Ero un pugile ebreo fortissimo nel 1956. Comunque tu. Allora vuoi capire che io faccio male. Non, comunque non tua toccato. Moglie ti ha denunciato per stalking, tua moglie. No, quella è la denuncia desunta dalle redazioni dell'arma, ha detto. Ma ti ha denunciato, c'è una denuncia, amico mio. No, c'è una denuncia, però. Più che una denuncia è una lamentela. Ma è una lamentela. No, il problema grave è che giustamente il giudice martedì mi ascolta. E vedrai che. Tutto si rivolgerà di tutto si riconoscerà. Ma Taormina, no, cosa fai? Si andrà tutto a finire che i veri che sono non mia moglie, ma gli altri. Sono gli altri, vabbè. Io mia moglie, non voglio lasciarla, sia chiaro. Scatenato contro il genero, c'è anche il genero di mezzo, il genero di Antinori. Ci sono problemi sulla gestione del patrimonio, è possibile no, o no? No, questo è il punto centrale di questo. Ma non è di mia moglie, è del mio genero, un certo Ceruso, un ex attore. Il quale vuole prendersi l'appartamento nostro. Ma ecco, di fatto lavorare a Roma, di fatto che ha detto, non venite a Roma a lavorare perché... Pensa che non essendoci io lavora lui un pseudo ginecologo, cioè, un pseudo. Il fatto è che tu con i soldi tuoi vuoi fare il cazzo che ti pare, eppure tua moglie. No, io voglio che lui non è ginecologo, ha operato pure un calciatore e non è capace. E fa il professore. No, approfondito, no. Si chiama Fabrizio Cerusino. È un sola, professore di niente, ha fatto per di pure un famoso calciatore. Con i soldi niente, tuoi, non soldi, niente. Coi soldi tuoi. Un famoso calciatore, un coglione ovviamente non laziale. Vabbè, questo è venuto da me un coglione non laziale, certamente fa il calcio, ma non capisce niente. E quando il professor Cerusino non sa fa un cazzo, il padre ha fatto un altro. Sì, allora però... io ho detto guarda, andatevene via da questo. Ma questo è mia figlia, è rincoglionita da questo tizio qui. No, no, ma la cosa più adesso... Non prendere le distanze da quello che ha detto. Perché... Vabbè, sì, certo. I carabineros, cioè i carabineros. Il genero, a me non si assume le sue responsabilità. Storie di pugili. Il genero. I nomi vengono fatti così. Il genero, che è un cretino, che opera calciatore, che non sa operare. E bodyguard che pare dentro casa, Fabio non storia con sua moglie. E molestie su poste. È una storia incredibile. Antinori's life proseguirà. Nessuno tocchi Cruciani. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta La Zanzara. Pensate a una povera prostituta che ha la sfortuna di avere come cliente Cruciani, caffè de merde, quei capelli luridi, zevati, oliosi, è un lavoraccio per le puntate. When she is lonely, and the longing gets too much. La figlia deve essere più pelosa possibile, perché deve essere una caccia al tesoro. E quando lo trovi, beh, amico mio, amico mio. Allora, io non capisco perché continuano a fare, caro Parenzo, delle multe nei comuni sulla prostituzione, veramente incredibile. Mi segnalano un altro comune che è quello di Eboli, dove un sindaco... Cristo si è fermato a Eboli. Sì, appunto, il cervello si è fermato a Eboli. Il sindaco Cariello ha emanato un nuovo divieto. È ripartita la caccia alle lucciole ai clienti. Chi si ferma in auto, a piedi, chi veste in maniera discinta riceverà una multa da educanda. 500 euro. Tu è anche poco. Da educanda rispetto alla una città vicina che è Battipaglia, dove addirittura perché sono stati fermati in auto con una prostituta, delle persone hanno preso 20.000 euro di multa. Bene, 20.000. Già meglio. Già 20.000. Ah, che paese. Ma abbiamo con noi un grande sessuologo che abbiamo più volte citato la settimana scorsa, caro Parenzo, Maurizio Bossi, buonasera, buonasera. Ah, buonasera a voi tutti, ben trovato Bossi. Parenzo, ben trovato Cruciani. Come grande, sta sì. Bossi? La vedo imperversare di nuovo ovunque, l'altro giorno era a Rai 1, dov'era? Grande professore. Ma dico qualche corbelleria ogni tanto in giro, ormai sono un nonno, cosa volete? Un nonno va in giro a raccontare qualcosa sui nipoti e sulle esperienze che ha fatto. Vai. Chioma bianca fluente. Elegantissimo sempre. Facevo un programma alla radio tempo fa, su Radio 105. Faceva un programma anche ad Antenna 3, molto famoso, che si chiamava Al lupo al lupo, se non ricordo. Ma allora siete informati, ragazzi, complimenti. Io ho lavorato lì e quindi lo conosco ogni bene. Tanto, certo, ma ci racconti un po' questa storia del preservativo spiegato al figlio, sì, al nipote, com'è la storia? Allora, voi l'avete mandato in onda, sì. Fondamentalmente è questo: una ragazza arriva a 16 anni, sì, e dice: papà, è il mio compleanno, che cosa mi regali? Sì. Amore, sicuramente qualcosa di bello, però questo è un regalo particolare che ti voglio fare, è una scatola di profilattici. Ma come, papà, mi regali i profilattici a 16 anni, non ho ancora avuto un rapporto? Esattamente per quello, tesoro, perché quel giorno che tu avrai il primo rapporto, lui sarà imbranatissimo, non saprà esattamente dove srotolarlo e come srotolarlo, e allora questa scatola dove viene usata? Sulle mani, sulle cinque dita. Le cinque dita, ogni dito srotola un profilattico. In quel momento tu sarai preparatissima, lui imbranato, e tu ti salverai. Questo è buono, eh? Questa è una grande lezione, ma davvero, adesso, lei ha figlie? Io sono padre e anche nonno. E anche nonno. No, ma padre, devo dire, di una ragazza che oggi è un medico meraviglioso, bravissimo. E quando lei aveva 16 anni che cosa ha fatto? Non credo che lei gli abbia spiegato tutto così, o sì? Cruciani, se te lo dico... L'hai fatto? L'ho fatto, certo. L'hai fatto, cioè non è solo un consiglio, è una cosa che hai fatto personalmente. L'ho fatto perché dovevo anche mettere in pratica le corbellerie che andavo dicendo. No, ma queste non sono corbellerie, è una cosa giusta, cioè hai insegnato a tua figlia come srotolare un preservativo, perché è vero che i ragazzi che si approcciano a questa roba qui, al sesso, spesso o non lo usano, o male, non lo usano male, oppure lo usano male, magari lo rompono, lo fanno, ma tu sei in grado anche di spiegare la tecnica del sì, ma questo direi che non c'è bisogno, un gran genio, sì. Ricordiamoci che effettivamente l'aria che rimane nel cosiddetto serbatoio può essere quella che determina la rottura nel rapporto costante. Esatto. Ma un dato che a voi giornalisti interessa sicuramente. Qual è? Io arrivo da un congresso tenutosi a Genova, dove hanno parlato tra l'altro di contraccezione eccetera, ma sui profilattici l'idea importante è questa. Per tanti anni abbiamo avuto un consumo costante. Sapete nell'ultimo anno come sono andati i profilattici? Come sono andati? Riduzione delle vendite, ma riduzione dei consumi. Non mi interessa tanto che abbiano venduto di meno, mi interessa che si consumi di meno. E che cosa vuol dire? Che dopo gli anni dell'AIDS, dopo gli anni della paura, siamo qui ancora a non capire che bisogna proteggersi? Ma scherziamo? No, è vero, c'è questo pericolo, anche perché ci sono dei deficienti in giro, come lei sa, che dicono che l'AIDS non esiste. Cioè che sono proprio dei deficienti, perché magari non l'hanno mai visto. Io quando ho visto il primo ragazzo, era tanti anni fa, sì, mi dissi, chiesi a un mio collega più anziano, ma che cos'ha questo ragazzo? Sì. Ma che problema ha? Dice, ma si parla di una nuova malattia, ma non ne sappiamo ancora molto. Morì pochi giorni dopo. E lì io imparai a capire quanto era importante e quanto era grave la cosa. Dopodiché, signori, se qualcuno vuol dire che non esiste, facciano un giro dove ci sono i malati veri di AIDS. Senta, professore, torniamo a cose un po' più leggere, no? Vai. Ma è vero che l'orgasmo si raggiunge più spesso da soli che con un partner, cioè in pratica la masturbazione è una cosa molto più soddisfacente. Autoerotismo maschile o femminile stiamo parlando? No, partiamo dalle donne. In generale, partiamo dalle donne. Partiamo Bene. Le donne hanno una grande capacità rispetto a noi maschietti, che conoscono perfettamente il loro corpo, le loro sensazioni, sì, la loro tattilità. Sì. E se lo insegnassero ai loro compagni, se prendessero la loro manina del loro compagno e dicessero è qui, ma non farlo veloce, fallo lentamente, fallo leggero, parti da lontano, e a questo punto sì che i maschi sarebbero veramente apprezzatissimi, e allora le donne non dovrebbero ricorrere né ai massaggiatori personali, perché adesso si chiamano così, né tantomeno l'autoerotismo. Cioè, sarebbero i dildi, insomma, no, personali sarebbero i dildi oppure i massaggiatori personali, cioè gli amanti? I massaggiatori personali in questo momento sono in vendita anche nelle farmacie, signori. Vedi, i dildi. Ah, ecco, i dildi, sexy toys, certo. Ma io a questo punto vi proporrei un test. È un test importante, perché la sessuologia è bella, ma soprattutto non deve essere solo sesso, deve essere educazione ai sentimenti, al capire l'altro, al capire come è fatta la testa dell'altro. Assolutamente. Ok, allora facciamo questo test con voi e con altri. Sì, il test si compone di due domande semplicissime. Attenzione però, Sì, vai. La prima è per Parenzo. Eccoci. Parenzo, secondo te esiste la prostata femminile? No. No. E invece esiste. Esiste invece, io so, esiste. Mio zio è stato un grande urologo, per cui lo so. Cioè, è un grande urologo. Luciani, adesso tocca a te. Dimmi. Allora, ascolta. Ma dov'è la prostata femminile però, scusami? Dov'è la prostata femminile? Sì. Bellissima questa domanda. È nell'uretra, è esattamente in corrispondenza del punto G. Quando voi parlate, ogni tanto parlate, vi sento, di eiezione femminile, che è il termine elegante per dire squirting, l'altro termine. Squirting, okay. Sì. Squirting, esattamente. Ebbene, come avviene questa eiezione? Da dove avviene? Esatto, da dove? Avviene? Dalla prostata femminile. Spigiando quel residuo embriologico che la donna ha, non tutte in misura maggiore o minore, però molte donne hanno, e pigiando in quel punto si ottiene lo squirting, o meglio, l'eiezione femminile. E che cos'è quella secrezione? Da dove viene? Cos'è? Dalla cosiddetta prostata femminile. Capito, Parenzo? Mamma mia, ragazzi, ma anche il tono, professore, professore, lei c'è gradisce la rivelazione. Ma no, ma lei, stupendo, ma lei gradisce o no lo squirting? Intanto per capire una cosa personale anche a lei. Lei gradisce o no lo squirting? Professore, allora, certo. Non si può dire. Io vecchio ormai, e posso dire che nelle mie modestissime esperienze cliniche ho apprezzato questa peculiarità, ma soprattutto ho capito che non è il 5% delle donne, come si tiene in letteratura, è molto di più. Sì. Certo, bisogna saperlo fare. E bisogna sapere tirar fuori, insomma. Però c'è il quiz per me. E c'era il quiz per te. Sì, vai, vai. Il ciclo femminile, sì, di quanti giorni è? Il ciclo femminile, 28, diciamo... 28 giorni, più o meno, vero? Sì, 28. Cioè, il ciclo femminile, nel senso, il periodo che c'è tra una... Tra una catameniale e l'altro. Sì. Diciamo tra una mestruazione e l'altro, così ci siamo capiti tutti. Più o meno quasi un mese, sì. Benissimo. Sì. Allora adesso, Cruciani, attenzione, perché questa è da rischio a tutto. Vai. E il ciclo maschile quant'è? Il ciclo maschile. Il ciclo maschile in teoria non esiste. Invece esiste pure. La domanda diventa una domanda tra pochetto. Cioè, evidentemente esiste il ciclo maschile. Il ciclo maschile credo che sia più o meno 15 giorni. Allora, se il ciclo fra un rapporto e l'altro non vale per Cruciani, perché ovviamente è diverso. No, è il ciclo fra il ricambio spermatozoario tra l'uno e l'altro. Una donna ricambia l'ovulo una volta al mese. L'uomo che ciclo ha 74 giorni. Pensate, madre Spieghi, non ho capito. Il ciclo dell'uomo è di 74 giorni perché c'è il cambio spermatozoico? Sì. Gli spermatozoi che tu produci oggi, sì, sono vecchi di 74 giorni, dopodiché ne riproduci fra 74 giorni un nuovo ciclo. Cioè, allora, in un ciclo spermatozoico un ciclo di 74 giorni. Sì, esattamente. E poi ma dopo 74 giorni produci altri spermatozoi. Ma noi li produciamo tutti i giorni in realtà, ma il ricambio completo, ecco, diciamo che il ricambio completo. 74 giorni. Ma se uno da tempo non fa sesso, no? Sì. Si riproduce comunque lo stesso, anche se non fa altre. Certo. E questa cosa qua che dicono che facendo sesso si può, non dico, limitare i casi in cui ti arriva la prostata, è vero o no? Cioè, più sesso, meno prostata. Una buona eiezione. Madre Natura ce l'ha messo lì, buon Dio, chi peraltro, perché deve funzionare. Quando noi non facciamo funzionare qualcosa, purtroppo si atrofizza o ha dei problemi. Ebbene, una buona attività sessuale, una buona emissione, aiuta anche a prevenire sicuramente le patologie prostatiche. No, si atrofizza, è terribile. Come si atrofizza? Beh, si atrofizza, c'è poco da fare. Ma ti atrofizzi tu? Come si atrofizza? Ma se non lo utilizzi, lo chiedo, cosa vuol dire si atrofizza? Se non lo utilizzi, più a mano si atrofizza, è giusto, lo dice il professore. E comunque ci sono ritenzioni di sostanze organiche che possono anche creare problemi. E giustamente, professore, lei dice più meno lo fai, e più c'è possibilità di. Di piccole patologie, ma addirittura pensate che qualcuno ha correlato l'astensione con il tumore della prostata. Ok, sono dati un pochettino preoccupanti e inquietanti, il che non vuol dire adesso masturbatevi tutti, però ragazzi, penso a quel poveretto di Mauro da Mantova, ad esempio. Lo spiego tu, che è un ascoltatore, un miserabile poveretto che non ha mai visto l'azienda diversa, quindi ma non... perché, che ne sai? No, non so, si capisce anche dalla rabbia con cui chiama. Diceva, comunque, professore, scusi. Parenzo, tu adesso hai anche un figlio maschio, se ricordo bene. Sì, però. Due figli maschi. Ha due maschi e una femmina, cioè è una femmina, magnifico. Quando arriveranno in adolescenza, mi raccomando, non delegare ad altri l'educazione, fallo tu papà. Non lo farò io per i maschi, il problema è la femmina. No, ma anche ai maschi dirò, sarò con orgoglio felice del momento in cui, per esempio, professore, dovrebbe dire che tradire fa bene. Tradire, c'è il tradimento terapeutico, sì, effettivamente c'è. Non mi piace dirlo perché comunque sembrerebbe indugiare e sembrare di favorire il fedifrago, però è vero, il tradimento terapeutico esiste se il tradimento è occasionale, se non è una situazione permanente, perché se no è in discussione non solo la coppia, ma tutta la famiglia, tutto il resto che corre. Dunque un tradimento ogni tanto... Scusatemi, devo dirlo, sì, si può accettare. Ma è reciproco, naturalmente. Ma quello è chiaro, reciproco, quello è fondamentale. Professore, alla prossima lezione, grazie, a presto. A presto, ciao. Il professor Maurizio Bossi. Vabbè, ragazzi, dove andiamo? Elio da Napoli, vai, Elio. Elio? Pronto? Vai, dimmi. No, siccome ce l'avete tanto con tutti quanti sti vegani, quelli che mangiano la... vogliono mangiare la carne, non ce ne frega proprio niente. Io dico, un po' di guerra, un po' di battaglia contro la gente che in città tiene questi maledetti cani che mi stanno facendo odiare i cani. Ormai non se ne può più, in città... No, non ho capito niente, Elio, non ho capito nulla, scusa. Perché vuoi fare la battaglia contro i cani che ci sono in città? Quali cani? I cani in città non stanno bene, è inutile che si mettono. Ho capito, ma adesso amico mio, non è che possiamo fare la battaglia, già abbiamo tanti nemici, pure contro quelli che portano, che c'hanno i cani in città, ognuno fa quello che vuole. Ma in città non possono stare, chi vuole il cane? Sta in campagna, si fa una bella casa e si mette il cane in campagna. Cioè, è uno schifo vedere la gente che alza la merda da terra con le mani, onestamente a me mi fa venire il volto al stomaco, mi fa incazzare quando fanno la pipì vicino alle ruote delle macchine, è uno schifo. Poi amico mio, alza, meno male che la alzano da terra. No, ma molti non la alzano perché vabbè, quando allora, mi vedono, ma soluzione allora qual è? Facciamo la battaglia contro sta gente che poi fanno tanto gli animalisti, invece rompono soltanto le palle loro e i cani. Chiamate tanto gli animali, andatevene in campagna con i vostri cani. No, amico mio, non ti posso seguire. Dai, Ciro, provincia di Salerno. Vai, Ciro. Giuseppe, buonasera. Dimmi. Io ti volevo chiamare a te e Parenzo, quando hai chiamato quel musulmano di Bologna. Sì, allora? Che faceva tanto caspo di tipo, ti volevo dire le parole in arabo. Beh, ha pregato prima. Ti volevo suggerire due parole, che allora sono deboli. Io conosco un sacco di marocchini che tratto con noi il bar. Tu lo sai come gli volevi dire? Zemel lekbir. Caut Messi, il grande piccione, vaffanculo a tomata. Ma che c'entra, Ciro? Che c'entra? No, perché chi rilassa, chi fanno? Vengono qua, vengono con la prepotenza. Fai bene tu che li mandi a fanculo. Ma quello veramente era un convertito, era un italiano che si era convertito all'Islam, capito? Sì, ma sono peggio di nazisti, peggio di tedeschi, Hitler era malamente, le stesse, chi sono ancora peggio? O penso loro, al loro paese. Io tenevo un fratello di mio nonno che stava in Kenya. In Kenya, che c'entra in Kenya? Ci sono i musulmani, non c'è dubbio che ci sono i musulmani, ci sono gruppi di musulmani che hanno, ma non so tutti i musulmani in Kenya. Cioè sì, però insomma hanno, proprio sono peggio dei cioè i tedeschi che portano hanno un manato, ma meglio stare in mano a Hitler che in mano a loro. Cioè, ma tu se non vuoi, io ne vedo gente, in fondo, tipo che viaggia. Poi aggiornati, poi giocate, per ragione che non c'è. Ma sono, ma chi cani, che i nazi vegani, sono peggio. Stiamo a chi di livello. Poi vi salva il tuo video sopra internet. Vai, ragazzi. Con il sentiamo con il salame in mano. Grazie, sotto mi apparenza. Ciao. Marijuana e zanzara. Marijuana e zanzara. Viva la zanzara! Ciao Cruciants! Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza. Lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Siamo ad alti livelli qua, Radio 24. La passione si sente.